sopra il balcone la neve. Oggi dicembre posò un lieto motivo assai breve. Qualcuno passando cantò. Dicembre m'ha portato una canzone che un giorno ci parlò di primavera. È stata la più semplice illusione, ma un attimo felice mi donò. Dicembre m'ha portato una chimera, il vento caldo della giovinezza, ma nel mio cuore è scesa ormai la sera e sento che mai più ti rivedrò. Con il pensier da te ritorno, ma è inutile, non è che un sogno. Se il nostro amor finì quel giorno, restar nei ricordi dovrà. Dicembre una canzone m'ha portato, che parve scritta con le mie parole. Ma tu non puoi tornare dal passato, perché mi hai cancellato dal tuo cuore. Maggio tornò con i fiori, breve e felice passò la nostra canzone nei cuori. Soltanto un ricordo lasciò. Cancellato dal tuo cuore. Oggi dicembre la neve ci porta questa canzone.